Mandela è una combinazione di varie cose. È un contadino, ma è anche un aristocratico e un democratico. Insomma, non è facile definirlo con una sola parola. È una combinazione di tante cose, ma una cosa. Lui ripete a tutti insistentemente: non sono un santo. Mandela lascia la presidenza del Sudafrica nel giugno 1999. We'll be right back.